L'altro ieri, lunedì 18 maggio, era il 139esimo giorno dell'anno. Il sole sorgeva alle 5.47 e tramontava alle 20.25. La luna, calante, sorgeva alle 4.04 e discendeva alle 16.16. La sua illuminazione era del 21%. Poiché la Luna si trovava all'apogeo, cioè nel punto più distante dalla Terra, e la sua attrazione estremamente debole, era sconsigliato piantare o seminare in vaso e nell'orto. Le piante sarebbero potute crescere fragili e più soggette all'attacco di parassiti e malattie. L'altro ieri avvenne. Anno 14, Agrippina Maggiore ed il piccolo Caligola lasciano Roma per ricongiungersi a Germanico Giulio Cesare, lungo il Reno nella città attuale di Colonia. 1198, incoronazione di Federico II di Hohenstaufen come re di Sicilia nella città di Palermo. 1450, i ribelli di Jack Cade vengono scacciati da Londra dalle truppe lealiste, facendo crollare la ribellione. 1652, Rhode Island approva la prima legge che rende la schiavitù illegale. Nel 1896, nel campo di Codinca, presso Mosca, 1389 persone muoiono schiacciate dalla folla riunitasi per festeggiare l'incoronazione di Nicola di Russia. 1910. La Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley. 1944, Seconda Guerra Mondiale, inizia la deportazione dei tartari di Crimea da parte del governo sovietico. 1976, si accentua il clima di terrore in Argentina. Dopo il colpo di Stato, vennero ritrovati 126 cadaveri crivellati da raffiche di mitra. Le persone sequestrate e scomparse salgono a diverse centinaia. 1993, dopo 11 anni di latitanza, all'alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santa Paola. Si nascondeva in Sicilia, nelle campagne intorno Catania. 2018, all'aeroporto di Havana, un aereo in fase di decollo si schianta al suolo, provocando la morte di 107 passeggeri. Moriva suicida a 23 anni, impiccato nella sua casa in Inghilterra, Ian Kevin Curtis, paroliere e voce dei Joy Division. Ci parlano di Federico II di Hohenstaufen, le ragazze dell'Almanacco. Approfondimento dell'Almanacco dell'altro ieri a cura di Maria Elisa di Rivombrosa e Banana Naio. Fu uomo pestifero, maledetto, scismatico, eretico, epicureo, che corruppe tutta la terra. Introduciamo con questa frase di Fra Salimbene de Adam, Federico Ruggero di Hohenstaufen, è più noto come Federico di Svevia, che nel 18 maggio del 1198 venne incoronato re di Sicilia, duca di Puglia, principe di Capua e pretendente della corona di Germania. Certo, anche la nostra Maria Elisa di Riva Ombrosa, di nobili origini, vanta titoli come principessa di Lamaro, duchessa di Tor Tre Teste e ambasciatrice di Centocelle in Molise, ma la sua storia è di certo molto meno conosciuta e controversa del nostro Federico. Nato a Iesi il 26 dicembre 1194, Federico muore il 13 dicembre del 1250 fiorentino di Puglia, affetto da una grave patologia addominale. I suoi genitori sono Enrico VI di Hohenstaufen e Costanza d'Altavilla. Suo nonno? Federico Barbarossa, grande conquistatore europeo da cui erediterà non solo l'impero ma anche il fenotipo. La storia di questo bambino è stata singolare sin da principio, poiché vede la luce nella piazza maggiore di Iesi, dove sua madre Costanza, ormai quarantenne, sarà obbligata a partorire. Obbligata a partorire in un baldacchino pubblico nel centro città affinché tutti potessero accertarsi che il futuro erede al trono fosse effettivamente nato dalla sua vagina. Che vuol dire? Beh, all'epoca era un dubbio piuttosto condiviso il fatto che una donna di oltre 40 anni non potesse terminare una gravidanza, e per questo si decide di allestire questo baldacchino pubblico affinché tutti potessero controllare la nascita. A soli 4 anni, il Puera Puglie, figlio delle Puglie, rimane orfano e si becca la caterva di titoli con l'incoronazione del 18 maggio del 1198, un regno e un babysitter di tutta eccezione, il Papa Innocenzo III. Nella sua vita attraversa 3 pontificati, quello di Innocenzo III, a cui lo legherà sempre un rapporto filiale, quello di Onorio III e quello di Gregorio IX, che lo scomunica apostrofandolo come una bestia piena di nomi di bestemmia. Intanto che il piccolo Federico è tenuto a balia da Innocenzo III, il Papa e la Chiesa con lui dormono sogni tranquilli. Ma ricordiamo che Papino Enrico VI gli ha lasciato in eredità l'Italia centro-settentrionale, parte della Toscana e dell'Emilia, e mammina Costanza il regno della Sicilia, che all'epoca corrispondeva all'incirca a tutta l'Italia meridionale. Quindi, a nord il regno di papà, a sud il regno di mamma e in mezzo c'è il Papa. Federico Ruggero di Hohenstaufen è il bambino che farà grandi cose, che tutti aspettano per portare la pace tra la Chiesa e il re. Ma, appena raggiunta l'età, Federico si affranca dal tutore papale e soprattutto dal controllo della Chiesa per partire in groppa al suo cavallo a riconquistare l'impero. Parliamo di un giovane sedicenne, immaginate che ego sconfinato. È ovviamente un grande legislatore, ma soprattutto è un grande curioso e studioso. Il suo regno è uno strabiliante melting pot di culture, lingue e arti, e soprattutto, cosa assai rara ieri come oggi, è un regno dove convivono pacificamente cristiani, musulmani ed ebrei. Oibò! Immaginatevi un regno che pullula di studiosi, scienziati, musici, maghi e poeti, dall'estrazione religiosa e culturale completamente differente, ognuno che attinge al proprio background per rispondere a domande sull'esistente e sull'esistito, per immaginare un nuovo modo di formalizzare la matematica o di concepire la poesia. Studiosi di latino e di arabo si avvicendano e dotti ebrei studiano il Talmud nello stesso momento in cui, in Francia, questo testo era sistematicamente bruciato poiché considerato eretico. Federico studia e si interessa a tutto questo, parla correttamente il latino, l'ebraico, il siciliano e il tedesco, ma la sua lingua prediletta sicuramente sarà l'arabo. Il suo maestro di arabo è sempre con lui, con il suo sajada, il tappetino per la preghiera, e ovunque loro siano, quando scocca l'ora X, il maestro, con gran grazia, lo tira fuori e comincia a pregare. Immaginate le reazioni di papesse e prelate. Ovviamente Federico è cristiano, eh? Tanto è cristiano da chiamare Iesi, la sua città natale, la sua Betlemme. Ma la Chiesa purtroppo lo detesta. Lo considera l'anticristo e la propaganda pontificia racconta di lui quanto segue. Un giorno Federico decide di indagare l'esistenza dell'anima. Lascia spirare un uomo in una botte e dopo la sua morte, aprendo la botte, nessun'anima fuoriesce. E voilà, per lui questa è la prova dell'inesistenza dell'anima. O ancora, citano le cronache guelfe dell'epoca, che un giorno Federico decide di scoprire quale fosse la lingua primigenia degli esseri umani e per farlo fa allevare dei neonati imponendo alle bale di non rivolgergli mai la parola per vedere da grande quale lingua avrebbero poi parlato. Ma, come potete immaginare, questi periscono dopo pochi mesi. Più che grottesco, direi. Ma gli storici suppongono che queste siano solo illazioni. In generale nessuno parla di Federico in modo neutrale. Tipo, i film di Woody Allen. Da una parte c'è chi lo definisce eclettico, intellettuale, filosofo, scienziato e politico. E dall'altra c'è anche chi lo qualifica traditore, impostore, criminale, eretico e epicureo. Chi toglie e chi mette. Ma tutti alla fine vuoi non vuoi riconoscono che è un capoccione e si inchinano a lui appellandolo lo stupor mondi, lo stupore del mondo. Di certo Federico non era solo un uomo di cultura, era anche un imperatore e come sappiamo stringi stringi non esistono poteri buoni. È lui che instaurò la pratica dei roghi per gli eretici ed operò una vera e propria pulizia etnica dei saraceni che vivevano ancora nell'entroterra della Sicilia, perché se tutti musulmani e saraceni convivevano con l'imperatore in un Eden delle arti, i musulmani poveri da quando il potere era cristiano erano sempre più poveri e agivano ormai come briganti. È anche vero che Federico viene ricordato come l'unico imperatore che vinse una crociata senza scoccare nemmeno una freccia, riconquistando Gerusalemme e le aree di interesse per i pellegrini cristiani e lasciando ai musulmani la spianata delle moschee. Quindi, amato dai musulmani, odiato dai cristiani, adorato dai dotti e dileggiato dai preti, Federico resta comunque uno dei personaggi più controversi della storia. Però, effettivamente, ancora non è mai passato sotto la lente di Jessica Fletcher, quindi direi ci rimettiamo a lei per un giudizio finale. La cometa di Halley, il cui nome ufficiale Wampi Halley, è la più famosa e brillante delle comete periodiche. Così chiamate in onore di Edmond Halley, che per primo ne predisse il ritorno vicino alla Terra, la cometa più famosa del mondo si ripresenta ogni 75 anni, cosicché viene ritenuto fortunato chi nel corso della propria esistenza riesce ad assistere a due passaggi. Uno di questi fu il poeta Mark Twain, che addirittura in vita scrisse più volte di essere sicuro che la sua scomparsa sarebbe coincisa, come in effetti fu, con la riapparizione della cometa. Dunque, mentre si spegneva la vita di Mark Twain, la Halley tornava a frequentare i cieli di un Occidente sempre più positivista, liberatosi ormai dalle antiche paure legate alle apparizioni degli astri chiomati. Ma proprio quell'anno accadde qualcosa di assolutamente imprevisto, tale da riportare indietro di secoli le lancette dell'orologio e scatenare un'ondata planetaria di isterica rassegnazione alla fine del mondo, sconvolgendo la Belle Époque e facendo precipitare il mondo nella follia. Nonostante al passaggio del 1835, quello precedente, la cometa era considerata semplicemente un oggetto celeste su cui poco si sapeva, le aspettative per il ritorno di quest'anno erano altissime. Lo sviluppo delle tecniche osservative, specialmente l'introduzione dell'emulsione fotografica e dello spettroscopio, fecero sperare che l'apparizione di quest'anno avrebbe fornito molte più informazioni sulla cometa che tutte le precedenti apparizioni messe insieme. Insomma, nel 1910 l'interesse mediatico non sarebbe mancato. Se non fosse che, ricalcolando orbita, che ci si accorse, la cometa sarebbe dovuta passare per il nodo discendente la notte tra il 18 e il 19 maggio, proprio nel momento in cui la Terra si sarebbe venuta a trovare sulla congiungente tra il Sole e la testa della cometa. Se la coda di Halley fosse stata più lunga di 26 milioni di chilometri che le separano dalla Terra, i gas avrebbero potuto investire il nostro pianeta. La notizia, che fino a quel momento era solo una curiosità tecnica limitata all'ambiente astronomico, arrivò al grande pubblico tramite un articolo di un giornalista, Camille Flammarion. In realtà, il giornalista si era limitato ad esporre il pericolo come del tutto ipotetico, descrivendo, questo è vero, i vari processi chimici che avrebbero potuto portare all'estinzione del genere umano. E malgrado chiarisse nel suo scritto come difficilmente quei gas avrebbero potuto interferire con la densa atmosfera della Terra, la grande stampa si impadronì del caso fino al punto di ingigantire a dismisura i pericoli. In parecchi paesi del mondo si segnalarono manifestazioni di panico collettivo, tanto che il giornalista divulgatore, preoccupato per la piega che aveva preso la situazione, si sentì in dovere di scrivere un altro articolo dove dichiarava in grassetto: la fine del mondo non arriverà il prossimo 19 maggio. cosa che naturalmente non servì a nulla, dato che i media diedero scarsa risonanza alla replica, preferendo invece continuare a cavalcare il lato più redditizio e spettacolare dell'intera vicenda, aiutati in questo anche da fatti casuali, come la morte del re d'Inghilterra Edoardo VIII, avvenuta il 6 maggio 1910. Affabile, gioviale e buon diplomatico, il monarca era immensamente popolare e l'evento non sembrò dunque che la conferma di quanto si sapeva sulla tradizionale fama delle comete come annunciatrici di sventura, cambi dinastici e morte di sovrani. J.K., che d'occasione usava il nome di John Mortimer, è stato un rivoluzionario irlandese. Nel 1450 capoggiò un'insurrezione popolare scoppiata nella contea del Kent, in Inghilterra, sotto il regno di Enrico VI. Tra il 1435 e il 1450, l'anno della ribellione di Cade, l'Inghilterra, impegnata nelle fasi finali della guerra di cent'anni, stava subendo pesanti sconfitte, perdendo quasi tutte le province francesi. Il corso negativo della guerra, l'incoronazione di Carlo VII e il disconoscimento della sovranità inglese sulla Francia concretizzavano la prospettiva di una rinuncia definitiva alle aspirazioni inglesi in terra francese. Nel 1446 scoppiò inoltre uno scandalo per la restituzione della Francia di alcuni territori. La debole condotta del re, schiacciato fra la corruzione e le tensioni montati con la casata di York, che sarebbero sfociati nella guerra delle due rose, paralizzava la politica interna. L'impopolarità di Enrico VI, conseguentemente, era all'apice. Nella primavera del 1450 i contadini del Kent protestarono contro l'incapacità del governo reale, le tasse elevate, la corruzione e gli effetti negativi della perdita della Francia. Il 4 giugno Mortimer, leader dei ribelli, pubblicò la protesta dei poveri popolani del Kent, una lista di rimostranze contro il Parlamento e l'aristocrazia della corte reale, accusati di manipolare le decisioni del debole sovrano. Ai primi di giugno 20.000 ribelli si concentrarono presso la città di Blackheath, a sud-est della capitale. Ai rivoltosi, in gran parte contadini, si unì una parte della cittadinanza e soprattutto un buon numero di soldati e marinai inglesi di ritorno dalla Francia, raddoppiandone il numero. Mentre il re trovava rifugio nella contea di Warwick, i 40.000 uomini, guidati da Cade, raggiungero Southwark, stabilirono il quartier generale nella locanda The White Hart. Il 3 luglio attraversarono il London Bridge. Il lord tesoriere e diversi membri della corte reale vennero arrestati e decapitati, e la città, nonostante le promesse contrarie di Cade, venne rimessa al sacco dai ribelli fino a sopraggiungere della notte, quando i rivoltosi fecero ritorno. La notte del giorno seguente i ribelli subirono ingenti perdite in uno scontro con l'esercito regolare organizzatosi presso il London Bridge. Conclusa la battaglia, il lord cancelliere convinse Cade a proporre fine alla rivolta in cambio del perdono e la promessa che il governo avrebbe ottemperato alla richiesta del manifesto. La ribellione si concluse, i contadini si dispersero, ma la settimana successiva Mortimer venne condannato come traditore e venne posta una taglia sulla tua testa. Catturato e ucciso, il corpo di Jack Cade venne trasportato a Londra e squartato per essere esposto come monito in diverse città. La sua testa, assieme a quella degli altri capi della rivolta, venne esposta sul London Bridge. Dopo la sua morte, i ribelli vennero perdonati, tranne 34, che furono giustiziati. J.K. e la rivolta da lui guidata figurarono nel dramma teatrale Enrico VI, parte seconda di William Shakespeare. Un seguace di Cade, in una discussione con il capo popolo, pronuncia la celebre frase: «E la prima cosa che faremo sarà uccidere tutti gli avvocati. Benedetta Santa Paola, detto Nitto e soprannominato il cacciatore o il licantropo, poiché si dice fosse affetto da una rara psicosi, la licantropia clinica, è un mafioso italiano condannato 5 volte e considerato uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa Nostra. Nitto Santa Paola nasce nel quartiere di San Cristoforo da una famiglia povera. È affetto da diabete. Frequenta una scuola salesiana, ma si ritira presto dedicandosi alle rapine. Ufficialmente Santa Paola, prima della latitanza, svolge vari lavori, tra cui il venditore ambulante di generi ortofrutticoli, di scarpe e articoli da cucina, e infine il titolare di una concessionaria di auto. La prima denuncia risale al 1962 per furto e associazione a delinquere. Successivamente viene affiliato nella famiglia di Catania, diventando in seguito un capo decina del boss Giuseppe Calderone. Nel 1970 gli ha imposto il soggiorno d'obbligatorio. Nel 1975 viene denunciato per contrabbando di sigarette. L'8 settembre 1978 riesce ad eliminare il suo capo Giuseppe Calderone e dà un chiaro segnale di voler puntare al comando di Cosa Nostra nel capoluogo etneo. Santa Paola uccise Calderone in accordo con i corleonesi, che non vedevano di buon occhio lo storico boss catanese nella loro ascesa sanguinaria ai vertici di Cosa Nostra. Coinvolto negli omicidi Lipari, la strage della circonvallazione, la strage di Via Carini. Nel 1982 le trame del clan di Nitto Santa Paola si aprono verso il nord Italia. Il boss assume come rappresentante del gruppo imprenditoriale che a lui si appoggiava Ilario Legnaro, presidente della Pallacanestro Varese, a cui riesce a far assegnare in gestione il casinò di Campioni d'Italia. Giovanni Brusca, in un interrogatorio del 7 maggio del 2001, racconta che attraverso Legnaro Santa Paola riusciva a riciclare ingenti somme di denaro nell'ordine di miliardi. Coinvolto nell'omicidio Fava, la strage di Via D'Amelio, il 18 maggio 1993 viene arrestato nelle campagne di Mazzarrone nell'ambito dell'operazione Luna Piena dalla Polizia di Stato. I reggenti del Clan Santa Paola diventarono Mario Tornabene e Natale De Emanuele, a loro volta arrestati in luglio. I pentiti che testimoniarono contro di lui furono Maurizio D'Avola e Nino Calderone, fratello del boss ucciso da Santa Paola nel 1978. Il 1 settembre del 1995 viene uccisa la moglie, Carmela Minniti, da Giuseppe Ferore, detto Cammisedda, che era un grande rivale del licantropo. Il 12 maggio 1995 riceve la prima condanna per associazione mafiosa a 18 mesi di isolamento diurno. È stato condannato all'ergastolo per la strage della circonvallazione. È stato condannato in primo grado per la strage di Via Carini. Il 17 maggio 1995 è stato assolto dalla Corte d'Assisi d'Appello, ma è stato poi rimandato dalla Corte Suprema in Cassazione. Il 26 settembre 1997 viene condannato in primo grado all'ergastolo per la strage di Capaci. La sentenza è confermata in appello il 7 aprile 2000. Tra gli altri condannati ci sono anche Provenzano, Riina e Giovanni Brusca. Nel 1998 viene chiuso il processo d'appello sulla morte di Giuseppe Vava. Santa Paola viene condannata all'ergastolo insieme a Aldo Ercolano. Il 14 novembre 2003 la sentenza viene confermata dalla Cassazione. Il 9 dicembre 1999 si conclude a Caltanissetta il processo. In primo grado, Borsellino Ter, Santa Paola viene condannato all'ergastolo con altri 17 capi mafia. Tra di loro ci sono Giuseppe Madonia, Giuseppe Calò e Raffaele Ganci. Il 7 febbraio 2002, in appello, la condanna gli viene ridotta a 20 anni. Detenuto, sempre in regime di 41 bis, nel carcere di Opera, nell'aprile del 2020, in piena emergenza coronavirus, il Tribunale Sorveglianza di Milano gli nega gli arresti domiciliari perché è ritenuto protetto dal rischio del contagio. Qua finisce l'almanacco dell'altro ieri. Un saluto a tutte e tutti. È finita la commedia.